L'amore e il sesso tra gli invertebrati di Pat Murphy. Questa storia non è scienza. Questa storia non ha niente a che fare con la scienza. Ieri, quando le bombe sono cadute e il mondo è finito, ho smesso di riflettere scientificamente. A questa distanza dal luogo dell'esplosione, della bomba che ha fatto saltare in aria San José, immagino di aver assorbito una dose media di radiazioni. Non abbastanza da uccidermi sul colpo, ma comunque troppe per sopravvivere. Ho soltanto pochi giorni e ho deciso di passare questo tempo a costruire il futuro. Qualcuno deve farlo. In realtà è ciò per cui sono stata addestrata. I miei studi superiori erano nel ramo della biologia, anatomia strutturale, la costruzione del corpo e delle ossa. I miei studi universitari invece riguardavano l'ingegneria. Negli ultimi 5 anni ho progettato e costruito robot da usare nei procedimenti industriali. La necessità di creazione di questo genere adesso non esiste più. Mi sembra un peccato sprecare l'equipaggiamento e i materiali rimasti nel laboratorio che i miei colleghi hanno abbandonato. Metterò insieme dei robot e li farò funzionare, ma non cercherò di capirli. Non li prenderò da parte e non rifletterò sul loro funzionamento interno, non li tormenterò, non li frugherò e non li analizzerò. Il tempo della scienza è finito. Lo pseudoscorpione, l'Asiocernes pilosus, è un insetto simile allo scorpione e molto riservato, che costruisce la sua casa nei nidi delle talpe. Prima di accoppiarsi, gli pseudoscorpioni danzano. Un minuetto sotterraneo osservato soltanto dalle talpe e da entomologi guardoni. Quando un maschio trova una femmina disposta ad accettarlo, afferra le sue tenaglie e la trascina verso di sé. Se lei resiste, lui si muove in cerchio rimanendo attaccato alle sue tenaglia e trascinandosela dietro, rifiutando di accettare una risposta negativa. Prova di nuovo, facendo un passo avanti e trascinando verso di sé la femmina con tenaglie tremanti. Se lei continua a resistergli, fa un passo indietro e riprende a danzare. Un cerchio, una pausa per trascinare la compagna riluttante, poi ancora un cerchio. Dopo un'ora e più di danza, la femmina inevitabilmente soccombe, convinta dai passi di danza che i geni del suo compagno si combineranno agevolmente con i suoi. Il maschio deposita un corredo di sperma sul terreno che è stato ripulito dai detriti attraverso la danza. Le tenaglie tremano mentre la trascina in avanti, posizionandola sul corredo di sperma. Alla fine, disponibile, lei comprime le sue spore genitali sul terreno e risucchia lo sperma nel suo corpo. Test biologici permettono di notare che le tenaglie dello scorpione maschio tremano mentre danza, ma non è possibile determinare il motivo. I test di biologia non fanno ipotesi sulle emozioni, sui motivi, sui desideri. Non sarebbe un procedimento scientifico. Credo che lo pseudoscorpione maschio sia un animale appassionato. Tra gli aromi quotidiani degli escrementi di talpa e della vegetazione in decomposizione, annusa la femmina e il profumo di lei lo riempie di passione. Ma è intimorito e confuso, un essere solitario, non abituato a socializzare. È infastidito dalla presenza di un altro del suo tipo. È preda di emozioni conflittuali. Il suo bisogno coinvolge tutto, i suoi timori e la stranezza della situazione sociale. Ho rinunciato alle pretese della scienza. Faccio ipotesi sulle motivazioni dello pseudoscorpione, sul conflitto e sul desiderio incarnati nella sua danza. Sistemo il pene sul mio primo robot, come se fosse una specie di scherzo, uno scherzo privato, uno scherzo sull'evoluzione. Suppongo di non aver davvero bisogno di dire che si tratta di uno scherzo privato. Io sono tutti i miei scherzi, adesso. Sono l'ultima persona rimasta, per quanto posso dire. I miei colleghi sono scappati, a cercare le loro famiglie, a trovarsi un rifugio sulle colline, a passare gli ultimi giorni correndo in giro di qua e di là. Non mi aspetto di vedere nessun altro qui intorno in nessun momento. E se lo facessi, probabilmente non si tratterebbe di persone interessate ai miei scherzi. Sono sicura che la maggior parte della gente pensa che il tempo degli scherzi sia finito. Non capiscono che la bomba e la guerra sono gli scherzi più grandi di tutti. La morte è lo scherzo più colossale, l'evoluzione anche. Mi ricordo di aver imparato la teoria di Darwin sull'evoluzionismo al corso di biologia del liceo. Anche allora pensavo che fosse un po' strano il modo in cui la gente ne parlava. L'insegnante ci presentava l'evoluzione come un fatto compiuto, finito e del tutto concluso. Si confondeva e si districava a fatica attraverso le complesse ipotesi che riguardavano l'evoluzione umana, parlando di Ramapithecus, Australopithecus, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens neanderthalensis. Neanderthalensis. Quando arrivava l'Homo sapiens si fermava. E questo era tutto. Il mondo in cui la nostra insegnante considerava la situazione prevedeva che noi fossimo l'ultima parola, la cime del mucchio, la fine della linea. Sono sicuro che i dinosauri pensavano la stessa cosa, se avevano la capacità di pensare. Come potevano essere avere a disposizione qualcosa di meglio di un'armatura rigida e una coda ricoperta di aculei? Cosa poteva chiedere di più? A proposito dei dinosauri, ho costruito la mia prima creazione sul modello di un rettile, una creatura simile a una lucertola, creata a partire da pezzi ricavati da prototipi industriali che riempiono il laboratorio e il magazzino. Do alla mia creatura un corpo resistente, lungo tanto quanto lo sono alta, quanto io sono alta, quattro zampe che si estendono ai lati del corpo e che si piegano al ginocchio prima di raggiungere il terreno, una coda lunga come il corpo e guarnita di borchie decorative di metallo, e una bocca da coccodrillo con grandi denti ricurvi. La bocca è solo decorativa e protettiva, questa creatura non mangerà. La equipaggerò con una quantità di pannelli solari fissati a una cresta a forma di vela sulla sua schiena. Il tepore della luce del sole indurrà la creatura a estendere la vela e a raccogliere l'energia elettrica per ricaricare le sue batterie. Nel freddo della notte ripiegherà la vela sulla schiena, che diventerà liscia e levigata. Adorno la mia creatura con materiali abbondanti vicino al laboratorio. Dai rifiuti accanto alla macchina di bibite recupero lattine di alluminio. Le taglio in un bordo colorato che sistemo sotto il mento della creatura, come la gorgiera di un'iguana. Quando ho finito, le parole sulla lattina di bibite si sono trasformate in sciocchezze prive di senso. Coca, Fanta, Sprite e Dr. Pepper si mescolano in una collisione di colori brillanti. Alla fine, quando il resto della creatura è completa, realizza un organo genitale di tubature, di rame e guarnizioni abbandonate. Pende sotto il suo ventre, luminoso e osceno. Intorno al rame lucente, intreccio un nido di topo con i miei capelli, che cominciano a cadere a ciocche. Mi piace l'aspetto che ha, rame brillante che spunta da un cespuglio di riccioli neri elettrici. A volte il dolore ha il sopravvento. Passo la maggior parte della giornata nel gabinetto delle signore, fuori dal laboratorio, distesa sul pavimento di piastrelle e alzandomi soltanto per vomitare nel water. La nausea era del tutto prevedibile, dopotutto sto morendo. Stesa sul pavimento, penso alla peculiarità della biologia. Per il ragno maschio, l'accoppiamento è un'operazione pericolosa. Questo è soprattutto vero nella specie di ragno che intreccia ragnatele intricate a forma di orbita, del tipo che cattura la rugiada mattutina e la riflette in modo così grazioso per i fotografi della natura. In quella specie la femmina è più grande del maschio. Essa è, devo confessare, piuttosto irrequieta. Attacca qualunque cosa si accosta alla ragnatela. Nella stagione dell'accoppiamento il maschio procede cautamente. Si distende ai confini della ragnatela e ne tira dolcemente un filo per attirare l'attenzione della femmina. Insiste a tirarlo con un ritmo molto preciso, segnalando alla sua potenziale partner, sussurrando dolcemente mentre tira la ragnatela: "Ti amo, ti amo". Dopo un po' si convince che lei ha ricevuto il suo messaggio, si sente fiducioso di essere stato compreso. Ancora procedendo con cautela, trasmette un messaggio di accoppiamento alla ragnatela della femmina. Pizzica il filo giusto per incoraggiare la femmina a muoversi nel modo giusto. "Solo per te, baby", segnala, "tu sei l'unica". Lei si muove, seguendo il messaggio di accoppiamento, ardente e appassionata, ma tempranamente addolcita dalle sue promesse. In quel momento, lui corre verso di lei. Consegna lo sperma, poi rapidamente, prima che lei cambi idea, scappa di corsa. Fare l'amore è una faccenda pericolosa. Prima che il mondo se ne andasse, ero una persona cauta. Facevo molta attenzione nella scelta degli amici. Scappavo al primo segno di incomprensione. All'epoca sembrava la cosa migliore. Ero una donna intelligente, pericolosa nella vita di coppia. Strano, mi trovo a scrivere e a pensare a me stessa al passato. Sono così vicina alla morte da considerarmi già morta. Gli uomini si avvicinavano con cautela, segnalando da lontano: "Sono interessato, lo sei anche tu?" Io non rispondevo. Non sapevo davvero come avrei potuto farlo. Come figlia unica avevo sempre considerato con fastidio la presenza degli altri. Mia madre e io vivevamo insieme. Quando ero piccola, mio padre è uscito a comprare le sigarette e non è più tornato. Mia madre, protettiva e cauta per natura, mi aveva avvisato che non ci si poteva fidare degli uomini, non si poteva avere fiducia nella gente. Ma lei poteva avere fiducia in me e io potevo avere fiducia in lei. E questo era tutto. Quando ero all'università, mia madre morì di cancro. Aveva scoperto di essere malata da più di un anno. Si era sottoposta a un intervento e poi alla chemioterapia. E intanto mi scriveva lettere allegre in cui parlava solo di giardinaggio. Il suo ministro del culto mi disse che mia madre era una santa. Non mi aveva raccontato niente perché non voleva interferire con i miei studi. Mi resi conto allora del fatto che aveva avuto torto. Non mi potevo fidare neanche di lei dopo tutto. Credo che forse mi sono lasciata sfuggire qualche piccola occasione. Se in qualche punto lungo la strada avessi avuto un amico o un amante che avesse fatto lo sforzo di tirarmi fuori dal mio nascondiglio, avrei potuto essere una persona diversa. Ma non è mai successo. Alle scuole superiori cercavo la sicurezza nei libri. All'università studiavo da sola anche il venerdì sera. Al momento di laurearmi ero come lo pseudo scorpione, abituata a una vita solitaria. Lavoro da sola nel laboratorio alla costruzione di una femmina. È più grande del maschio, i suoi denti sono più lunghi e più numerosi. Sto saldando le giunture delle anche al loro posto quando mia madre viene a trovarmi. Katie mi dice: "Perché non ti sei mai innamorata? Perché non hai mai avuto figli?" Continuo a saldare, a dispetto del tremito delle mie mani. So che lei non è davvero là. Le allucinazioni sono un sintomo dell'avvelenamento da radiazioni, ma lei continua a guardarmi mentre lavoro. "Non esisti davvero", le dico, e mi rendo conto immediatamente che parlare è stato un errore. Ho riconosciuto la sua presenza e gli ho dato più potere. "Rispondi alla mia domanda, Katie", dice. "Perché non l'hai fatto?" Non rispondo, sono impegnata e ci vorrebbe molto tempo per dirle del tradimento, per raccontarle la confusione di un insetto solitario messo a confronto con una situazione sociale, per descrivere l'equilibrio tra paura e amore. La ignoro proprio, come ignoro il tremito delle mani e il dolore del ventre, e continuo a lavorare. Alla fine lei se ne va. Uso ciò che resta delle lattine vuote per dare alla femmina scaglie di colori brillanti: rosso Coca-Cola, verde Sprite, arancione Fanta. Dalle lattine di bibita realizzo un ovidotto bordato di metallo, è grande abbastanza da consentire la sistemazione dell'organo genitale maschile. L'usignolo maschio attrae una compagna costruendo una sorta di opera d'arte. Servendosi di bastoncini e di erba, costruisce due pareti molto vicine e parallele che si uniscono in alto a formare un arco. Decora questa struttura e la zona intorno con oggetti variopinti. Pezzi d'osso, foglie verdi, fiori, pietre colorate, piume colorate abbandonate dagli uccelli più veropinti. In zone dove la gente ha abbandonato i suoi rifiuti, usa anche tappe di bottiglie e monete e frammenti di vetro colorato. Si siede sotto l'arco e canta, proclamando il suo amore per tutte le femmine nelle vicinanze. Alla fine una femmina ammira il suo arco, accetta il suo invito e si accoppia con lui. L'usignolo usa una capacità di discriminazione nel decorare il suo arco. Sceglie gli oggetti con cura, selezionando un pezzo di vetro perché luccica, una foglia brillante per la sua eleganza naturale, una piuma blu cobalto per il suo tocco di colore. Che cosa pensa mentre costruisce e decora il suo nido? Che cosa gli attraversa la mente mentre sta appollaiato e canta, annunciando al mondo il suo amore? Ho liberato il maschio e sto lavorando alla femmina, quando sento un rumore di lamiere e uno schianto fuori dall'edificio. Nel vicolo, tra il laboratorio e il palazzo di uffici vicino, sta succedendo qualcosa. Scendo a investigare. Dalla bocca del vicolo spio all'interno e la creatura maschio mi corre incontro, sorprendendomi così che faccio un passo indietro. Scuote la testa e digrigna i denti minaccioso. Mi ritiro all'estremità della strada e rimango lì. Si avventura fuori dal vicolo, correndo via lungo la strada. Poi si ferma vicino alla BMW parcheggiata presso il marciapiede. Sento gli artigli grattare il metallo, il copriruota cade, tintinnando sull'asfalto. La creatura porta il lucente pezzo di metallo alla bocca del vicolo e poi ritorna a prendere anche gli altri, rimuovendoli uno per uno. Quando mi muovo, corre verso il vicolo, con l'intenzione di bloccare ogni tentativo di entrare nel suo territorio. Quando rimango immobile, torna al suo lavoro, a raccogliere i copriruota, a trasportarli verso il vicolo e a sistemarli in modo che catturino la luce del sole. Mentre le osservo, rovista nei rifiuti e raccoglie cose che trova attraenti: una bottiglia di birra, alcuni involucri di plastica colorata di caramelle, una corda di plastica gialla e lucente. Raccoglie tutto quello che ha trovato e scompare nel vicolo con il suo carico. Aspetto, osservando. Quando ha esaurito i rifiuti vicino alla bocca del vicolo, si avventura dietro l'angolo e io faccio la mia mossa, correndo verso l'ingresso del vicolo e guardando dentro. Il pavimento del vicolo è coperto da pezzi di plastica e di carta colorati. Vedo gli involucri di bastoncini di canditi e incarti del Burger King e del McDonald's. La corda di plastica gialla è legata a una tubatura che corre lungo una parete e a un uncino sporgente sulla parete opposta. Appesi come abiti puliti su un filo da bucato ci sono colorati pezzi di tessuto. Un asciugamano da bagno color borgogna, un copriletto stampato a fiori, un lenzuolo di satino azzurro. Abbraccio tutto con un unico sguardo, prima che possa esaminare meglio la tana. Sento il clangore delle zampe sull'asfalto. La creatura sta correndo verso di me infuriata per la mia intrusione. Mi volto e scappo nel laboratorio, sbattendomi la porta alle spalle. Ma una volta che sono lontana dal vicolo, la creatura non mi insegue. Dalla finestra del secondo piano lo osservo tornare al vicolo e sospetto che stia controllando se non ho pasticciato in giro. Dopo un po' riappare all'inizio del vicolo e si accuccia lì, mentre la luce del sole si riflette sulla sua corazza metallica. Nel laboratorio costruisco il futuro. O forse no, ma non c'è nessuno qui che possa contraddirmi, quindi io affermo lo stesso. Completo la femmina e la libero. Poi il malessere ha il sopravvento. Mentre ho ancora la forza di farlo, trascino una branda da una stanza sul retro e la sistemo vicino alla finestra, dove posso guardare fuori e osservare le mie creature. Cosa voglio da loro? Non lo so con certezza. Voglio che sappiano che ho lasciato qualcosa alle mie spalle. Voglio essere sicura che il mondo non finirà con me. Voglio la sensazione, la comprensione, la certezza che il mondo continuerà a esistere. Mi chiedo se i dinosauri morenti fossero lieti di vedere i mammiferi. Piccole creature simili ai ratti che rovistavano riservate nel sottobosco. Quando ero a scuola, tutte le ragazze furono obbligate a guardare una presentazione speciale durante la lezione di ginnastica, un pomeriggio di primavera. Con la tuta da ginnastica addosso, ci sedemmo nell'auditorium e guardammo un film che si chiamava Diventare una donna. Il film parlava della pubertà e delle mestruazioni. I disegni che accompagnavano il discorso mostravano lo schema di una giovane ragazza. Mentre il film procedeva, lei diventava una donna, i seni si ingrandivano. L'animazione mostrava il suo utero che sviluppava un rivestimento, poi lo perdeva, poi ne sviluppava un altro. Ricordo di aver osservato con timore i disegni che mostravano le ovaie mentre liberavano un uovo che si univa a uno spermatozoo. Quest'ultimo si alloggiava nell'utero e col tempo diventava un bambino. Il film in qualche modo aveva delicatamente evitato di affrontare il problema di quale fosse la fonte dello sperma, poiché ricordo di aver chiesto a mia madre da dove veniva e come entrava in una donna. La domanda la mise molto a disagio. Borbottò qualcosa a proposito di uomini e donne che si innamorano, come se l'amore fosse in qualche modo tutto ciò che ci voleva perché uno spermatozoo trovasse il proprio percorso nel corpo di una donna. Dopo quella discussione, mi sembra che fui sempre piuttosto confusa a proposito dell'amore e del sesso, anche dopo aver imparato tutto sulla meccanica del sesso, su cosa succede e dove. Il pene scivola nella vagina agilmente, ma dov'è che entra in gioco l'amore? Dov'è che finisce la biologia e cominciano le emozioni più alte? La femmina dello pseudo scorpione ama il maschio quanto la loro danza è terminata? Il ragno maschio ama la sua compagna mentre scappa via per salvarsi la vita? C'è amore tra gli usignoli mentre si accoppiano il loro nido? I libri non lo dicono. Faccio ipotesi, ma non ho modo di procurarmi le risposte. Le mie creature sono impegnate in un lungo, lento corteggiamento. Sto sempre peggio. A volte mia madre viene a farmi domande alle quali non rispondo. A volte gli uomini si siedono accanto a me sul letto, ma sono meno reali di mia madre. Si tratta di uomini ai quali ho voluto bene. Uomini che ho pensato di poter amare, anche se non sono mai andata oltre questo pensiero. Attraverso i loro colpi traslucidi, vedo le pareti del laboratorio. Adesso penso che non siano mai stati reali. A volte, nel mio delirio, mi ricordo tante cose. Un ballo al college, danzavo lentamente, col corpo di qualcuno premuto contro il mio. La stanza era calda e affollata, perciò uscimmo per prendere un po' d'aria. Mi ricordo che mi baciò, mentre con una mano mi accarezzava un seno e con l'altra pasticciava con i bottoni della mia camicetta. Io continuavo a chiedermi se quello era amore, quel rovistare nell'ombra. Nel mio delirio le cose cambiano. Ricordo di aver danzato in cerchio con le mani di qualcuno che stringevano le mie. I piedi mi dolgono, tento di fermarmi, ma il mio compagno mi costringe a continuare. Si rifiuta di lasciarmi libera. I miei piedi si muovono istintivamente, a tempo con quelli del mio compagno, anche se non c'è musica che ci aiuti a tenere il ritmo. L'aria è impregnata di umidità e di muffa. Ho vissuto la mia vita sottoterra, sono abituato a questi odori. È amore? Passo i miei giorni distesa vicino alla finestra, guardando fuori attraverso un vetro sporco. Dalla bocca del vicolo lui la chiama. Non gli ho dato una voce, ma lui la chiama a suo modo. Sto frenando tra loro le zampe anteriori, così che il metallo gratta contro il metallo, producendo un suono stridulo, come fosse un grillo della grandezza di un bug. Lei oltrepassa la bocca del vicolo, ignorandolo, mentre lui carica verso di lei digrignando i denti. Lui atterra, come se la invitasse a seguirlo. Lei passa oltre. Ma poi, un momento dopo, lei ripassa e la scena si ripete. Capisco che lei non stia davvero ignorando l'attenzione del maschio. Sta solo perdendo tempo, riflettendo sulla situazione. Il maschio intensifica gli sforzi, rovescia la testa mentre arretra, facendo del suo meglio per richiamare l'attenzione della femmina sulla splendida tana che ha costruito. Li ascolto di notte. Non posso vederli. L'elettricità è mancata 2 giorni fa e le luci della strada sono andate. Così ascolto nell'oscurità, immaginando zampe metalliche che si strofinano una contro l'altra per attirare l'attenzione. La vela sulla schiena del maschio risponde con un rumore di metallo mentre si apre, poi si ripiega, poi si riapre, in quella che sembra essere una dimostrazione erotica. Sento la coda ricoperta di aculei che rasca su una schiena spinosa in una specie di carezza. Denti digrignanti contro il metallo, morsi d'amore, forse. Il leone morde la leonessa sul collo mentre si accoppiano. Un atto di aggressione che lei accetta come dimostrazione di affetto. Artigli che strofinano contro la corazza metallica, che risuonano su scaglie metalliche. Questo credo sia amore. Le mie creature capiscono cos'è l'amore. Immagino un pene fatto di tubature di rame e di guarnizioni che scivola in un canale bordato di fogli metallici ricavati dalle lattine di una bibita. Sempre il metallo che scivola contro il metallo. E poi l'immaginazione mi tradisce. La mia creazione non ha strumenti per riprodursi, spermatozoi, uova. La mia preparazione scientifica è insufficiente, questa parte è affidata alle creature. Il mio corpo sta cedendo. Di notte non dormo, il dolore mi tiene sveglia, ho male dappertutto, nel ventre, nei seni, nelle ossa, ho smesso di mangiare. Quando lo faccio per un po' il dolore aumenta, poi vomito. Non riesco a tenere dentro niente, quindi ho smesso di tentare. Quando arriva, la luce del mattino è grigia e filtra attraverso la foschia che copre il cielo. Guardo fuori dalla finestra, ma non riesco a vedere il maschio. Ha abbandonato la sua postazione alla bocca del vicolo. Guardo per un'ora circa, ma la femmina non passa da quelle parti. Hanno finito di beccarsi? Rimango in osservazione dal mio letto per alcune ore, con la coperta avvolta intorno alle spalle. In alcuni momenti la febbre sale e la coperta si inzuppa di sudore. A volte ho freddo e tremo sotto le coperte, eppure non c'è movimento nel vicolo. Impiego più di un'ora per scendere le scale. Non posso più fidarmi delle gambe, così striscio sulle ginocchia, attraversando la stanza come un bambino troppo piccolo per stare dritto. Mi porto dietro la coperta, avvolta intorno alle spalle come una cappa. In cima alle scale mi riposo, poi scendo lentamente, un gradino per volta. Il vicolo è deserto. La confusione dei copriruota riluce nella debole luce del sole. Il caos di carte colorate sembra trascurato e abbandonato. Mi avvicino cautamente all'ingresso. Se il maschio dovesse corrermi incontro adesso, non potrei scappare. Ho usato tutte le mie riserve di energia per arrivare fin qui. Il vicolo è tranquillo. Riesco ad alzarmi in piedi e barcollo attraverso pezzi di carta. Ho gli occhi annebbiati e riesco solo a vedere il copriletto che sventola alla bocca del vicolo. Vado in quella direzione. Non so perché sono venuta qui. Probabilmente volevo capire. Volevo sapere cosa è successo. Questo è tutto. Mi affaccio dietro il copriletto, sospeso a mezz'aria. Nella luce opaca vedo una porta nella parete di mattoni. Qualcosa è appeso all'architrave. Mi avvicino cautamente. L'oggetto è grigio, come la porta dietro ad esso. Ha un aspetto particolare, a spirale. Quando lo tocco, percepisco una leggera vibrazione dall'interno, come il mormorio di un meccanismo lontano. Appoggio la guancia contro di esso e riesco a sentire un suono basso, deciso e uguale. Da bambina la mia famiglia mi portava spesso a fare passeggiata sulla spiaggia e io passavo ore a esplorare le pozze lasciate dalle maree. Tra i mucchi di molluschi nerazzurri e di serpentelli neri raccolti a turbante, trovai i gusci delle uova di uno squalo in una pozzanghera. Era una forma di spirale, come quest'uovo. E quando lo tesi verso la luce, riuscii a vedere dentro il piccolo embrione. Mentre osservavo, l'embrione si contrasse, muovendosi, anche se non era davvero vivo. Mi accuccio in fondo al vicolo, avvolto in una coperta. Non vedo ragione di muovermi. Posso morire in qui, come in qualsiasi altro posto. Sto vegliando sull'uovo, perché non corra rischi. A volte sogno la mia vita passata. Forse avrei dovuto comportarmi diversamente. Forse avrei dovuto essere meno cauta, rispondere al messaggio dell'accoppiamento, dare ascolto alla canzone quando un maschio mi chiamava dal suo nido. Ma adesso non ha più importanza. Tutto questo è finito. L'abbiamo gettato alle nostre spalle. Il mio tempo è terminato. I dinosauri, gli umani, il nostro tempo è terminato. Arrivano nuovi tempi, nuovi tipi di amore. Sogno il futuro e i miei sogni sono pieni del clangore di artigli metallici. Pat Murphy è una scrittrice e scienziata americana. Oltre a romanzi e racconti, ha scritto anche un libro per bambini, The Wild Ones. Ha vinto diversi premi per il suo lavoro, tra cui il Nebula, il World Fantasy Award e il Philip K. Dick Award. È stata cofondatrice del James Tiptree Jr. Award con Karen Joy Fowler. Il suo ultimo progetto si intitola Bad Girls Guide to Reality, un omnibus di due romanzi, Wild Angel e Adventures in Time and Space with Max Merrivale. L'amore e il sesso tra gli invertebrati esplora la sessualità e i ruoli di genere nel regno animale e la loro applicazione agli esseri umani. È stato pubblicato per la prima volta nell'antologia Alien Sex nel 1990.